ser bruna. Non ci penso proprio, non so se tutta la senti. No, ma no, sono di dire due cose. No, devi dire due cose, adesso. Ma forse posso dire soltanto una cosa in conclusione, diciamo, riprendendo quello che ha detto Federica prima, nel senso che forse è un percorso che ancora dobbiamo fare, no? Quello fra, diciamo, lesbiche e transessuali sicuramente lo dobbiamo ancora fare, però io in questo percorso comunque cercherei sempre di non cadere nella gabbia della definizione e dell'autodefinizione, perché poi la gabbia della definizione e dell'autodefinizione rischia poi di produrre sensazioni di rifiuto, di esclusione o anche di autoesclusione. Non so se mi spiego bene, se riesco a spiegare quello che voglio dire, perché io penso che magari, non lo so, dico anche una cosa antipatica, penso che quello noi dovremmo cercare di fare questo discorso cercando di costruire per quanto più possibile dei nuovi soggetti che siano eccentrici, cioè che siano una pluralità, cioè un soggetto che possa contenere una pluralità di identità dentro di sé, no? Quindi anche quando dico io sono una donna, però che quale donna, che donna, no? Quindi c'è una pluralità cioè un nuovo soggetto che possa contenere tutto dentro, no? Tutto, però tutto nuovamente ridefinito, altrimenti rischiamo sempre di scontrarci sul terreno della identità che diventa una cosa fissa, no? E quindi invalicabile, impenetrabile. E penso che, non lo so, magari fra i tanti testi, insomma, anche quelli che ha citato Elena, uno forse al quale dobbiamo sempre ancora ritornare per capire questo è dalla parte delle bambine di Elena Giannini Pelosi, perché lo stare al mondo di una donna nata donna è comunque, diciamo, ancora prima del primo vagito diverso dallo stare al mondo di un uomo nato uomo, cioè già da quando stai nella pancia, la pancia appuntita allora significa che è maschio, quella rotonda invece significa che è femmina, se ti vengono le macchie è perché è femmina, se invece stai bene è perché è maschio, quando nasci è un bel maschio, vabbè è una femmina, no? Quindi è una cosa che si prende proprio col latte materno, questa cosa, no? Col sangue proprio materno, se vogliamo proprio viverlo nella carne, per cui è chiaro che è vero che c'è una posizione di arroccamento di molte donne davanti a una transessuale che dice io sono una donna, perché comunque nelle posizioni delle lesbiche, donna nata donna, nel senso che ha tutto quel vissuto comunque ancestrale, carnale, no? Che si può vivere solo con pelle di donna, come quando io per esempio posso fare mia la battaglia dei neri, no? E delle nere, no? E stare, diciamo, in piazza con loro, ma non sono nera, cioè non l'ho vissuto sulla mia pelle, non sta scritto nel mio corpo, no? Per cui secondo me questa discussione va continuata, però quando la riprendiamo, e spero che la riprenderemo, cioè andare oltre, cioè partire da questo per andare oltre la definizione anche di che cosa è una donna, di che cosa, e forse come già facciamo noi, tu l'hai detto, no? Lesbismo, femminismo, transessualismi, femminismi, lesbismi, transessualismi, no? Mettere tutto al plurale, partire, diciamo, dall'esperienza di ognuno e di ognuna di noi e mettere quell'esperienza a confronto senza rischi di, diciamo, senza arroccamenti e senza reazioni poi di percezioni di rifiuto e di esclusione. Spero di essermi spiegata. E dico due cose anch'io, una mi riallaccio proprio a quello che stava dicendo Vittoria e dico una cosa anche perché penso di essere in un contesto in cui ci si può permettere un confronto reale che può essere anche letta come politicamente scorretta, quindi prendetela con, cioè nel senso che la questione, io credo che ci sia una differenza tra me e Federica, non credo che potrei dire che abbiamo la stessa identità, cioè non credo, non lo penso, poi magari sbaglio, questo è il mio modo di pormi, e la differenza non sta nei cromosomi. Io non lo so cosa portano i cromosomi, cioè nel senso, ma non credo, sinceramente non credo che i cromosomi c'entrino quasi niente con niente di quello di cui stiamo discutendo. Credo che invece c'entra nel percorso di vita e quindi c'entra nella socializzazione da piccoli, da adolescenti, da piccole da adolescenti, come maschi, come femmine. Io per esempio noto una cosa, e questa è quella che è a rischio di politicamente scorretto. Io ho sempre notato una cosa da quando ho cominciato ad avere relazioni politiche anche con trans F2M e M2F. Difficilmente le trans M2F hanno problemi di presa di parola. Molto diffusamente i trans F2M hanno difficoltà di presa di parola. Io credo che questo c'entri molto con la socializzazione che hanno avuto come femmine e che avete avuto come maschi. Quindi credo che questo sia un dato concreto che fa capire lo sviluppo di un percorso. Io riconosco l'identità di Max, non è che non riconosco l'identità di Max, però so che in partenza ha avuto una socializzazione probabilmente più simile alla mia di quella che ha avuto Federica. Poi le nostre identità, le nostre soggettività sono diverse, però sono diverse tutte e tre, ecco, non so come voglio dire, appunto, essenzialmente questo. L'altra cosa che voglio dire è che io ricordo, questo permettetemi un po' d'orgoglio di parte, non lesbica, ma per esempio di Facciamo Breccia. Io Facciamo Breccia come movimento, da quando è nato, ha avuto una grandissima partecipazione a tutti i momenti del lesbismo separatista e dei trans, a tutte le manifestazioni di Facciamo Breccia hanno aderito tutti i gruppi separatisti, così come dentro Facciamo Breccia, in maniera assolutamente visibile e costitutiva, hanno fatto parte trans F2M e M2F. Per me Facciamo Breccia, per esempio, è stato un grande luogo di confronto. Io prima non ne avevo di luogo di confronto con i trans e le trans. Cioè, io il primo trans F2M con cui ho scambiato tre parole è stato Giorgio. Cioè, nel senso, prima non per me non esisteva proprio il contesto. Quindi voglio dire, si possono fare delle cose insieme, cioè non esiste soltanto il problema che appunto Elena Villetta rompa l'asa alle donne, cioè, esistono anche contesti invece altri, insomma, cerchiamo appunto di avere un. E l'ultima cosa che voglio dire, perché voglio riallacciarmi all'inizio del mio intervento, è, lo ripeto anche se l'ho già detto, la questione della mancata assunzione dell'antisessismo da parte del movimento LGBT ha costretto per anni, e costringe ancora, le lesbiche a dei comportamenti che spesso vengono tacciati di conflittualità, rissosità, isterismo, eccetera eccetera. Che voglio raccontare un aneddoto che con noi non c'entra niente, ma che secondo me rende molto bene la situazione. La Casa Internazionale delle Donne oggi non è più un luogo separato, nel senso che dal 2000 la Casa Internazionale delle Donne è aperta a tutti e a tutte, non è più anche ai maschi eterosessuali, però all'interno di quell'edificio esiste una parte che si chiama Centro Femminista Separatista, che è ancora un luogo separato. Le compagne che stanno dentro a quel luogo hanno un problema continuo col resto della casa, perché siccome la casa affitta spazi e ha bisogno di soldi, tende a affittare spesso anche lo spazio di là, l'affitta a iniziative di donne, ma che non avendo un'assunzione politica mentre vanno lì, magari hanno il compagno che entra per andarla a prendere, eccetera eccetera. Le compagne separatiste devono andare una volta alla settimana, due volte alla settimana, tre volte alla settimana alla parte di là e dire: oh, anche stavolta è venuto uno, si è seduto dentro, è entrato, è stato là, eccetera eccetera. Non sta parlando di trans, sta parlando appunto di maschi eterosessuali. Una volta una di queste compagne cosa ha fatto? Ha detto: questa volta vengono loro a discutere. C'era un maschio che era entrato dentro, si era seduto su una poltrona, stava là, e lei invece di andare lì a spiegarle questo è un luogo separato eccetera eccetera, ha preso una sedia e gli ha detto: te ne vai o ti meno, sostanzialmente. E ovviamente passando come una pazza isterica. Però ha pensato semplicemente: vengano per una volta quell'altra a protestare, invece di essere sempre io a andare a dire il mio luogo, la mia pratica è stata, eccetera, eccetera. Però ecco, nel movimento LGBT non si può stare con le sedie alzate. Cioè, ci vuole una, cioè almeno io non ci voglio stare con le sedie alzate, insomma. Credo nessuno e nessuna di noi ci voglia stare, quindi ripeto, proviamo a assumerci collettivamente questa cosa. I percorsi poi si costruiscono, anche perché li stiamo già costruendo, nonostante questa appunto mancata assunzione. Io ho finito. Per continuare, visto che è 1:30, direi che facciamo una pausa pranzo. Rigidamente alle 2:15 siamo qua, più o meno. Rigidamente. No, nel senso, in realtà c'è un problema logistico. Siccome ieri abbiamo noi pensato alla pizza, oggi non ci abbiamo pensato e è quasi tutto chiuso. Allora andiamo al Conad a farci un panino. Chiuso. Bene. Allora una prende la macchina e quindi c'era scritto, lei si è sicura di questa cosa.